notte, il mondo è sempre in giro. Notte, senza una meta che non vuoi. Dimmi cosa non daresti mai. Dimmi cosa che cosa c'è che non si fa. Dimmi senza te, dimmi senza te. Cos'è una meta al lago? Cos'è che il cielo è vago? Provi nuvole, una vela bianca. Provi nuvole, sul lago d'Orta. Batte il cuore arrugginito. Parte questa barca che non vedo dentro, che non c'entra niente con la mia vita. Che non vedo dentro e non c'entra niente, non c'è più realtà. Onda rifletta azzurra, l'onda ha ragione il sole che l'estate è dentro, dentro di te. Onda, il cielo è sempre azzurro dentro te. Cancella il grigiore, cancella il grigiore. Oh, dimmi cosa c'è.